Benvenuti su Radio Disturba Popolo. Io sono Fabio e questo è Visioni Distorte. E iniziamo subito con un album storico degli Yes, Close to the Edge, uno dei album più famosi della strumentali della storia del progressive. Ecco, proprio con un album che parlava di qualcosa che non era ancora stato fatto e di una realtà che forse non si poteva concretizzare se non con gli Yes, un gruppo formidabile con dei membri fantastici che ha portato alla rivoluzione della musica. Forse non si poteva pensare che in un futuro così alto c'era ancora l'aspettativa che si creasse qualcosa di fantastico. Erano gli anni in cui tutto era possibile. Oggi parleremo della società del controllo, del famoso Grande Fratello prospettato da Orwell e del governo mondiale magari che si è pensato e immaginato Huxley. O perché no, anche il nostro Hugh Benson. Come avete capito dalle citazioni che ho fatto, questo programma parlerà molto di distopie e utopie. E forse è iniziata un po' come per tutti, perché iniziare un programma e parlare di qualcosa che è stato scritto fra le due guerre o comunque qualche anno prima? Beh, perché ci siamo trovati tutti a chiederci perché... come mai questo tempo è insopportabile? Come mai abbiamo sempre questa sensazione di solitudine? Nell'era più connessa della storia, dove i social ci permettono di essere in contatto con chiunque. Raggiungere l'altra parte del mondo ormai è praticamente talmente facile che basta prendere un aereo e si arriva dall'altra parte del mondo spendendo pochissimi soldi. Eppure non riusciamo a trovare uno stimolo per muovere il culo dalla sedia e distogliere l'attenzione dalla nuova serie Netflix o dalla partita della squadra preferita. Qualche anno fa saremmo andati a vederla, poi vabbè, dopo tutta questa storia, non so, adesso ce la guardiamo davanti a DAZN o che ne so. E invece qualche anno fa saremmo andati a vederla, avremmo fatto la nostra cantata con gli amici, ci saremmo bevuti qualche birretta sul pullman per arrivare in trasferta, e perché no, anche qualche cannetta, perché togliersi questo piacere. E poi ci saremmo passati una bella domenica, ecco. Magari parlando di cannette era solo per dire che si poteva, cioè non ce lo saremmo mai immaginato che arrivasse una situazione del genere. Poi a un certo punto non ti riesci più a ricordare quando hai perso queste abitudini. Cioè dopo 2 anni i locali sono ancora vuoti, la musica è quello che è. Ci sono ancora tutte queste restrizioni dentro le case di riposo, dentro gli ospedali, dentro gli ambulatori. Qualcosa è profondamente cambiato. E poi inizi a ricordarti come quando ti arriva un destro di un pugile professionista, le raccomandazioni dei medici e degli esperti, le maschere, i camici, la polizia che rincorre un ciclista sulla spiaggia o il posto di blocco che ti chiede di fargli vedere la spesa che avevi nel bagagliaio. Cioè, ragazzi, vi sareste immaginati la municipale che vi ferma e vi chiede di fargli vedere cosa avete nel bagagliaio? Qualche anno fa io sarei sceso e gli avrei detto: ma che cazzo vuoi, ragazzo? Ma come ti permetti? E come se niente fosse, invece scendi e fai vedere all'ufficiale, chiamiamolo così, a quello che tiene alla tua salute, all'incolumità del pubblico, quello che è nel bagagliaio. ...1984, parte 1, capitolo 5. Nella mensa, situata nei sotterranei di un locale, dal soffitto molto basso, la fila per il pranzo procedeva a strappi. Il locale era già strapieno e il rumore era assordante. Dal contenitore del balcone si diffondeva il vapore dello stufato con un aspro sapore metallico che non riusciva mai del tutto a disperdere i fumi del gin Vittorio. In fondo al locale si trovava un minuscolo bar, nient'altro che un buco nel muro, dove si poteva acquistare il gin a 10 centesimi il bicchiere. «Proprio la persona che stavo cercando!» disse una voce alle spalle di Winston. Winston si voltò. Era il suo amico Sim, che lavorava al reparto ricerca. Forse, amico, non era la parola più esatta. In quei tempi non esistevano amici, solo compagni. Era però vero che la sua compagnia e la compagnia di alcuni di questi compagni era più piacevole di quella di altri. Sim era un filologo specialista in neolingua, faceva parte in effetti di un'enorme redazione di esperti che stava preparando la stesura dell'undicesima edizione del dizionario della neolingua. Era un ometto esile di corporatura più piccola di Winston, con capelli neri e grandi occhi sporgenti, colmi di malinconia e arguzia allo stesso tempo, che sembravano cercare qualcosa all'interno di un singolo lineamento del vostro volto. «Ti volevo chiedere se per caso hai qualche lametta da barba», disse. «Neanche una», rispose Winston con una fretta che sembrava celare il senso di colpa. «Ho cercato ovunque. Sembra non esistano più». Tutti chiedevano le lamette da barba. In realtà Winston ne aveva un paio nuova che teneva da parte come un tesoro. C'era stata grande richiesta di lamette nei mesi precedenti. In ogni momento i negozi di partito restavano corti di questo e quell'altro bene di prima necessità. A volte si trattava di bottoni, altre volte del filo per i rammendi, un altro giorno ancora per le stringhe e per le scarpe. Adesso era la volta delle lamette. C'era modo di procurarsele, sempre ammesso che ci riuscisse, solo in modo più o meno clandestino, al cosiddetto mercato libero. «Sono 6 settimane che uso la stessa lametta». Mentì. La fila fece un scatto in avanti. Quando si fu fermata, Winston si girò di nuovo verso Sim, preso entrambi un vassoio unto da una pila ammassata all'estremità del banco. «Ieri sei andato a vedere l'impiccagione dei prigionieri?» disse Sim. «Avevo da lavorare», rispose Winston con indifferenza. «Immagino che la faranno rivedere al cinegiornale». «È un surrogato insoddisfacente», commentò Sim. I suoi occhi beffardi lo scrutarono. «Ti conosco bene», sembrava dicessero. «Ti leggo nel pensiero, lo so che non sei andato a vedere l'impiccagione. Perché non sei andato?» Sim era di un'ortodossia maligna, come sanno esserla soltanto gli intellettuali. Discorreva dell'incursione degli elicotteri sui villaggi nemici, dei processi, delle confessioni, degli psicocriminali e delle esecuzioni nei sotterranei del Ministero dell'Amore, con un piacere sgradevole e perverso. Parlare con lui voleva dire sforzarsi prima di tutto di tenerlo lontano da tali argomenti e impegnarlo sempre se ci si riusciva. Altri aspetti tecnici della lingua, un argomento di cui era un vero esperto e che rendeva la conversazione molto interessante. Winston mosse leggermente la testa da un lato per evitare che quei grandi occhi neri continuassero a studiarlo. «È stata un'impiccagione soddisfacente», disse Sim rammentando l'evento. «Penso però che perda molto d'efficacia quando gli legano insieme i piedi. Mi piace vederli scalciare e più ancora apprezzo la lingua che fanno alla fine, che gli sporce dalla bocca, con quel suo colore azzurro, un bel azzurro vivo. Un dettaglio che mi manda in estasi». «Il prossimo», strillò, alzando il maestro la prolete con un grembiule bianco. Winston e Simon spinsero fin sotto il contenitore del cibo e vassoio, rapidamente ci venne posato sopra il pasto regolamentare. Una ciotola di stufato grigio rosa, un pezzo di pane, un cubo di formaggio, una tazza di caffè Vittorio senza latte e una compressa di saccarina. «C'è un tavolo laggiù sotto il teleschermo», disse Sim, «ma prima prendiamo un gin». Quando ti hanno detto che non potevi vedere i tuoi cari per Natale o andare da tua nonna nell'ospizio o nella casa di riposo o magari semplicemente a trovarla a casa sua, All'inizio non ci credevi che fosse, cioè all'inizio sì, forse i primi mesi avresti credevi che tutto questo fosse vero, che fosse qualcosa di papabile, che ci fosse veramente questo virus killer che cercasse di uccidere chiunque e non ci fosse una cura e fosse impossibile salvarsi in qualche maniera. I medici e la rappresentazione in TV dicevano questo, no? Ma dopo 2 anni, forse adesso diresti lo stesso? Io personalmente non credo, non sono riuscito a zittire... Sì, si tratta di credere, amico, cioè chiaramente credere. Ormai siamo proprio nell'era della religione, della scienza. La scienza si è trasformata in un culto, non più in verità né ricerca. E quindi sì, io non riesco a credere perché non sono mai riuscito a zittire quella voce che mi ha sempre detto che era troppo assurdo per essere vero. Non mi tornava la gestione pandemica a livello statale, non mi tornavano i morti numeri, come a tutti pensano. E quella patetica sceneggiata del nostro Monsignor Locatelli, lo chiamo così perché era come un cerimoniere del culto su quella scrivania e con quelle felpette della protezione civile che annunciava i morti come fossero solo numeri e non persone. E cosa che... non riuscivo a credere che era qualche amico che se n'era anche andato, grazie a quella farsa, a quell'esempio di malsanità che è stata questa gestione. Le malattie ci sono sempre state, le pestilenze anche, ma mai mi sarei immaginato si potesse normare perfino su che ora chiudere i locali, o che locali e imprese o negozi chiudere, o i servizi ad esempio, o... su qualsiasi o su quante volte andare a fare la spesa. Ma poi che bello, ragazzi, è arrivata la soluzione, c'è il farmaco sperimentale siero mRNA che nessuno sa che cazzo è, che cazzo fa. Il mondo è nuovo, la filastrocca del Soma. 0,5 grammo per un riposo di una giornata, 1 grammo per una giornata di vacanza, 2 grammi per un'escursione su un fantasmagorico oriente, 3 per l'oscura eternità della luna. Nessuna alternativa era concessa. La bontà delle farmaceutiche, che per la necessità hanno dovuto mantenere i segreti dati dall'esperimentazione e soprattutto i contratti di acquisto, era un pochino sospetta. 2 mesi, in 2 mesi precisamente, il 1 marzo 2020, a 2 mesi esatti dal primo annuncio di un caso di polmonite eziologica ignota, a soli 38 giorni dall'annuncio della China National Health Commission, che avvertiva il mondo della trasmissione da uomo a uomo del nuovo virus, Moderna annunciava alla Casa Bianca di aver pronto il vaccino. Vedi, alle volte la lungimiranza. Questo è un piccolo tratto di quello che è stato l'industria delle vaccinazioni di Pietro Ratto, un libro che consiglio a tutti di leggere, che parla appunto di questa pandemia, non in tutto il libro, ma parla della storia della vaccinazione. Che lungimiranza, appunto, scrive il professore. Io direi che bei guadagni. Prima che succedesse questo disastro, chiedevo agli amici che cosa sarebbe stati questi momenti, perché nella nostra zona era successa di un'epidemia di meningite, se qualcuno forse se lo ricorda, nella zona di Bergamo, precisamente nella zona di Sarnico, e poi all'università di Brescia erano molti, se non mi ricordo male, 4 ragazzi. E si diceva fossero morti di una meningite C, di una meningite B, e quindi si era corsa alle vaccinazioni. Il problema è che dopo qualche mese da questa notizia era comparso che in realtà il ceppo appunto era di meningite C, quindi invaccinabile. E quindi la gente aveva fatto le code alle 4 del mattino e pagato 100 euro per farsi una bella vaccinazione così, che forse non sarebbe servita a nulla. Ma la questione era proprio, chiedevo ai miei amici in quel dicembre del 2019, Che cazzo si sarebbero iniettati se glielo avessero detto i telegiornali? E così scherzando, leggendo un trafiletto del Corriere in quel periodo che parlava di questa SARS che si era trasferita in Giappone, che iniziava a diffondersi in Giappone, di questa strana influenza che prendeva in maniera particolare ed era molto infettiva. È come se avessi avuto la sfera di cristallo. Un sospetto arrivava con la solita voce che mi aveva spinto a non credere poi a quella messa in scena delle bare di Bergamo, che mi diceva qualcosa che non tornava. Un trafiletto, una pagina del Corriere trovato in università, appunto quello lì, quello di cui dicevo sul Giappone. Insomma, erano tempi ancora non sospetti, però nello stesso momento era come se ci fosse stato un annuncio, almeno dei media. O più che un annuncio, direi una prova, no? E non riusciva a tornarmi perché proporre una soluzione così masochista. D'altronde anche la scienza, con la H finale, aveva imposto degli iter ben precisi per l'utilizzo di un farmaco. E quindi quando si apprese di quel fantastico, di quella un'altra bellissima messa in scena, di quel furgone che arrivava ad Oltralpe scortato sotto 70 gradi, di cui dubitiamo tutti che siano 70 gradi perché ci hanno raccontato anche di delle storielle, allora lì qualcosa è scattato ancora. Perché obbligare la popolazione, perché alla fine si tratta di obbligo surrettizio, cioè vietare alle persone che non si sono sottoposte a un trattamento sanitario obbligatorio di lavorare o di mandare i propri figli a scuola perché non sottoposti a tutte queste fantastiche invenzioni mRNA, era un obbligo in piena parola, parliamo, anzi in piena regola più che in piena parola. E quindi parliamo con i termini precisi, perché siamo anche qui per ricordare questi momenti, per non dimenticarli, per riportarli alla mente. Come dicevo, anche questi simpaticoni delle farmaceutiche avevano, dovevano almeno, avere dei regolamenti. C'era un regolamento EMA che parlava di una procedura centralizzata di autorizzazione. E anche qui il sospetto sale, più che sospetto ormai era una certezza, come si suol dire, perché si è trovata la scappatoia e si è utilizzata l'autorizzazione emergenziale condizionata all'uso del siero salvifico, come vi avevo detto. Voi avreste detto che l'impianto normativo aveva solo funzionato bene, anch'io, oliato perché era piovuta una pioggia di soldi dall'Europa, tutti gli stati avevano trovato l'accordo, no? Quella pioggia di miliardi, prenotiamo le dosi in eccesso e noi italiani non potevamo tirarci indietro. Però quello che non tornava a fin dei conti era la segretezza dei contratti d'acquisto, che ne era una prova insieme al segreto del trial di sperimentazione. Per forza di cosa doveva essere ancora in corso. Se avete voglia di svalangarvi i coglioni e andarvi a leggere qual è la procedura di approvazione di un vaccino o comunque di sperimentazione di un trial del vaccino, magari forse inizierete a sparare meno stronzate quando vi si dice che è un vaccino sperimentale. Non ho voglia però di perdere tempi e tecnicismi, ma vi ricordo che per non mettere in commercio un farmaco testato in maniera così superficiale ci sono dei tempi, delle prove che non si possono skippare, ma ovviamente c'è lo stato emergenziale del nostro Conte con gli Zebidei di Casalino e le puttane dei 5 merde, no? Ma poi come garantire alle persone che avevano scelto di essere cittadini responsabili una protezione, cioè la sicurezza di essere protetti e di essere fra persone che erano a loro volta cittadini responsabili da questa e quindi proteggersi da questa infezione mortale, e magari che altri intorno a loro non fossero dei potenziali untori, ecco. Ed altrettanto piovuto dal cielo, come è stato per il siero salvifico, è stato il Green Pass. Quindi l'unico strumento utile per garantire la sicurezza dei cittadini, anzi uno strumento di libertà e sicurezza, citando qualche grandissimo stronzo banchiere. Che dire, la realtà sembrava peggio di quanto avessi potuto immaginare, ma non si poteva mollare. Cioè, ragazzi, quella voce, cazzo, mi punzecchiava talmente i reni e non potevo stare zitto. E poi mi avevano insegnato che solo con la convinzione si poteva andare avanti nella vita. E pensare, come ogni persona disperata, nel momento più buio ho cercato uno spiraglio di luce. Un'intera vita dedicata alla giustizia e alla legge, e a credere che ci fosse qualcosa di più del mero pezzo di carta che è la nostra Costituzione, che garantisce la nostra libertà. E credevo ancora che ci fosse un argine al potere dettato dall'alto, e in questo caso del potere governativo, perché ci siamo trovati una legislazione che era utilizzata solo per precisare dei regolamenti amministrativi, utilizzata come fonte di legge primaria. Vi ricordate l'aspettativa del fine settimana per il nuovo DPCM, i ritardi di Conte, le aspirazioni affannose da quelle naselle piene di cocaina del nostro Presidente del Consiglio, allora Presidente del Consiglio, e di qualche giorno fa ormai la notizia che sono stati rimandati a giudizio per la mancata tempestività, non per omicidio, come dovrebbero essere quei fottuti bastardi assassini. Ovviamente ogni mia speranza era rivolta alla giustizia, i nostri tribunali e giudici che avrebbero dovuto lottare come leoni contro questa ingiustizia, contro questa privazione. Ma anche loro, per potersi tenere il lavoro, per poter esercitare più che altro, per farci giustizia, no? Noi dovevamo rimanere fuori dalle aule e loro ci avrebbero difeso nelle aule. E qui non so se è il caso, ne parleremo forse un'altra volta, di parlare di tutti questi avvocati e di tutte queste cause collettive. Perché anche lì un pochino la vocina si è fatta sentire. A voi no, ragazzi? E poi, non so, vi ricordate cosa ha detto ultimamente la Corte Costituzionale sull'obbligo vaccinale? Allora facciamoci una domanda. Come facciamo? Come cazzo facciamo a fidarci ancora di qualcuno? Ma soprattutto, perché ci hanno imposto uno strumento, che per loro è solo uno strumento di sicurezza, e poi ci siamo accorti che questo strumento veniva pian piano spinto su un'identità. Era legato a un QR code che parlava dei nostri dati sanitari, ma veniva però gestito dal Ministero dell'Economia e della Finanza, quindi qualcosa non torna, no? Il mondo si stava sgretolando davanti ai nostri occhi, eppure noi eravamo presi da quell'emergenza, riuscivamo a vedere solo i programmi, i servizi, tutte quelle tragedie che si compivano davanti agli occhi. E intanto c'era parte della popolazione che era in piazza con noi a combattere, che non veniva cagata minimamente di striscio. Quelli come noi non molla mai. Ecco, siamo riusciti solo a cantare delle filastrocche, ma non siamo riusciti a farci sentire. Ma tanto aveva iniziato Berlusconi così. Lasciateli protestare, quei comunisti di merda, no? ...1984... parte seconda, capitolo 8. Si trovava proprio di fronte a loro, li sovrastava con la sua possente figura e l'espressione del volto era ancora impenetrabile. Aspettava, evidentemente, che Winston parlasse, ma di che cosa? Perfino in quel momento era verosimile che O'Brien fosse soltanto un uomo molto impegnato che si stava chiedendo scocciato per quello avessero disturbato. Nessuno parlava, i secondi continuavano a passare interminabili. Winston quasi non riusciva più a guardare quell'uomo negli occhi. Poi, all'improvviso, quel volto arcigno si aprì in quello che poteva essere l'abbozzo di un sorriso. Col suo solito gesto, O'Brien si sistemò gli occhiali sul naso. «Lo dico io o lo dite voi?» disse. «Lo dico io», Winston con decisione. «Quell'arnese è davvero spento?» «Sì, è tutto spento, siamo soli. Siamo venuti qui perché...» Si bloccò, perché per la prima volta si rese conto di quanto fossero vaghe le sue motivazioni. siccome non sapeva che genere di aiuto poteva attendersi da O'Brien, non era facile spiegare perché si trovasse lì. Poi riprese a parlare, consapevole che quanto stava dicendo appariva fragile e presuntuoso allo stesso tempo. Noi crediamo che esista una sorta di cospirazione, di organizzazione segreta che operi contro il partito e che tu ne faccia parte. Vogliamo unirci e partecipare. Siamo nemici del partito, non crediamo nei principi dei Shocking. Siamo tutti e due psicocriminali, siamo adulteri. Ci diciamo queste cose perché vogliamo metterci a tua completa disposizione. Se tutto questo non è sufficiente, siamo pronti a comprometterci in qualsiasi altro modo. Si fermò e guardò rapidamente dietro di sé. Aveva avuto l'impressione che la porta ci fosse aperta e infatti il piccolo domestico dalla faccia gialla era entrato senza bussare. Winston vide che reggeva un vassoio con un decanter dei bicchieri. «Martin è dei nostri», disse O'Brien, senza scomporsi. «Metti i bicchieri lì sopra, Martin, sul tavolo rotondo. Bastano le sedie. Bene, allora possiamo anche sederci e parlare comodamente. Prendi una sedia anche per te, Martin. Sono questioni importanti. Puoi smettere di fare il domestico per i prossimi 10 minuti». L'uomo si mise comodo, eppure mantenne una certa aria servile, tipica del cameriere al quale si è stato concesso un privilegio. Di nuovo Winston lo guardò con la coda dell'occhio. Lo colpiva il fatto che la sua vita fosse una recita continua e che considerasse pericoloso mettere da parte anche solo per un momento il personaggio. O'Brien prese il decanter e riempì i bicchieri di un liquido color rosso scuro. Il gesto fece emergere alla memoria di Winston qualcosa che aveva visto molto tempo prima su un muro o su un cartellone pubblicitario. Un'enorme bottiglia composta da molte luci elettriche che sembrava muoversi su e giù e versare il proprio contenuto in un bicchiere. Visto dall'alto, quel liquido sembrava quasi nero, ma nel decanter splendeva come un rubino. Emanava un aroma agrodolce. Winston vide che Giulia sollevava il proprio bicchiere e lo annusava con genuina curiosità. «Si chiama vino», disse O'Brien con un mezzo sorriso. «Sono certo che ne avete letto nei libri. Temo che al partito esterno non ne arrivi molto». Poi riprese la sua espressione solenne e alzò il bicchiere. «Considerata la situazione, credo sia opportuno cominciare con un brindisi al nostro capo, Emmanuel Goldstein». Winston prese il bicchiere con una certa avidità e curiosità. Il vino era qualcosa di cui aveva letto e sognato, come il fermacarte di vetro o le filastrocche dimenticate a metà del signor Carrington. Il vino apparteneva a un passato romantico e svanito, un bel tempo di una volta, come amava chiamarlo nei suoi pensieri segreti. Chissà per quale motivo aveva sempre pensato che avesse sapore molto dolce, come la marmellata di more, e un immediato effetto inebriante. Quando l'ebbe bevuto però ne rimase piuttosto deluso. La verità era che dopo anni di gin non riusciva ad apprezzarne il gusto. Mise giù il bicchiere vuoto. «Allora Goldstein esiste, vero?» chiese. «Sì, esiste ed è vivo e vegeto, anche se non ho idea di dove si trovi in questo momento. E le cospirazioni? L'organizzazione è qualcosa di reale, non è una semplice invenzione della psicopolizia». No, anch'essa è vera. La chiamiamo la confraternita, ma tutto ciò che vi è concesso sapere in questo momento è che esiste e che voi ne farete parte, ma ne parleremo tra poco». Guardò l'orologio. Anche per i membri del partito interno non era prudente tenere il teleschermo spento per più di mezz'ora. Non sareste dovuti venire insieme, vi allontanerete separati, tua compagna», disse il nostro Brian, e accennò con la testa in direzione di Giulia. «Uscirai per prima, abbiamo una 20 minuti a nostra disposizione. Capirete che prima di tutto devo rivolgervi alcune domande. Parliamo di un termini generali, che cosa siete pronti a fare, in poche parole?» «Tutto ciò di cui siamo capaci», rispose Winston. O'Brien si era leggermente girato sulla sedia e ora guardava in faccia Winston. Ignorava quasi Giulia, forse perché dava per scontato che Winston parlasse anche per il nome suo. Per un attimo tenne le palpebre abbassate, poi cominciò a porre le sue domande con voce bassa e inespressiva, come se si trattasse di una questione di ordinaria amministrazione, di una specie di catechismo le cui risposte gli fossero per la prima parte già note. «Siete pronti a sacrificare le vostre vite?» «Sì». «Siete pronti a uccidere?» «Sì». a commettere atti di sabotaggio che potrebbero causare morte di centinaia di persone innocenti? Sì. A vendere il vostro paese a potenze straniere? Sì. Siete pronti a mentire, a contraffare, a ricattare, a corrompere la mente di bambini, distribuire sostanze stupefacenti, incoraggiare la prostituzione, trasmettere malattie venere, porre in atto tutto ciò che possa deprimere il partito e indebolirne il potere? Sì. Nel caso in cui, tanto per fare un esempio, fosse utile per i nostri scopi gettare dell'acido solforico in faccia a un bambino, sareste disposti a farlo? Sì. Siete pronti a perdere la vostra identità e trascorrere il resto della vostra vita facendo i camerieri portuali? Sì. Siete pronti a suicidarvi se e quando ve lo dovessimo ordinare? Sì. Siete pronti voi due a separarvi e a non vedervi mai più? No! Sbottò Giulia. Beh, ragazzi, dopo tutte queste considerazioni, forse la domanda che dovremmo farci è se riusciamo ancora a fidarci di questi avvocati, avvocatucoli, o comunque da questi esponenti contro che ci promettono di fermare l'avanzata del sistema mondialista se aderiamo al loro gruppo. Lasciamo questa decisione a voi. Dopo 2 anni che ci sorbiamo, quasi 3, tutte queste dichiarazioni di un'oggettiva riuscita di questo compito. Alla fine delle finite, perfino le inchieste su Bergamo e sui morti dovuti a queste procedure, all'utilizzo di questi contratti segreti che avevano utilizzato le farmaceutiche, sono rimaste arenate. Addirittura vengono esposte le telefonate, le intercettazioni di questi ministri, del ministro Speranza, del capo dell'AIFA, facciamo i nomi perché dobbiamo farli, a differenza degli altri gruppi che hanno paura di farli. Eppure la magistratura se ne sbatte altamente i coglioni. Quindi ragazzi, facciamoci un'altra domanda. E forse questo era il punto centrale di quello che dovevamo fare. Facciamoci la domanda: che cosa serviva il Green Pass e che cosa ha portato veramente nella nostra vita? Tutti nell'ambiente degli emarginati sociali avevano incontrato almeno una volta i nomi di Agenda 2030, di World Economic Forum, Bilderberg, Davos Forum, Sea Club di Roma o Trilaterale. E le avevamo presi come un'entità mistica, qualcosa che forse mai nelle nostre vite avrebbe cambiato qualcosa di oscuro, qualcosa di lontano, qualcosa che agiva nell'oscurità ma in realtà non si vedevano gli effetti. Credevamo fosse insomma una sorta di cattivo delle fiabe, ecco. Ma poi, come ogni volta che la realtà si manifesta, così all'improvviso, come quando ti arriva un destro di un pugile professionista, ti ritrovi a terra spiazzato e non sai cos'è successo. Poi forse capisci che era il pugile che avevi davanti da più di 20 anni, almeno 20 anni, almeno dalla Seconda Guerra Mondiale. Sembra che si sia provveduto a seguire un indirizzo ben preciso, consapevole e programmato. Persino il fantastico progetto di un'unione tra stati europei nasce da una volontà sovranazionale. Addirittura il nostro Peroncini, nel suo libro Il Potestà Europea, dice che l'origine è addirittura dalla CIA. Prima nasce come progetto CECA, Comunità Europea Economica per l'Acciaio e il Carbone, poi diventa Europa Unita e poi si ha l'unione monetaria nel 1992 con il primo trattato di Maastricht. E quindi ragazzi, poi ve la ricordate, no? Prodi che diceva sì, lavoreremo una giornata in meno guadagnando lo stesso. Vi piace? Adesso come sta andando a finire? Praticamente da terzo paese o secondo paese a livello europeo, a livello di economia, siamo finiti al 12° o al 13° posto. Tant'è che fra poco non ci inviteranno più al G7. Addirittura adesso ci trattano come i greci, che hanno costretto e violentato al loro interno del loro paese. I costi dell'energia elettrica sono i più alti d'Europa dopo la Grecia. Ovviamente le periferie devono soffrire perché la Germania deve prosperare, no? Non ci vogliono raccontare la storia completa. E quindi ragazzi, se avete tempo, il libro che vi ho citato nelle frasi precedenti del Peroncini, andate a vederlo, è qualcosa che comunque illumina. Poi vogliono se vogliono darci invece dei sovranisti, quella è un'altra questione. Tanto ogni tanto si inventano un nuovo termine per cacciare il dissenso da qualche altra parte, no? Non vi voglio raccontare altro perché secondo me ognuno deve iniziare a scoprire queste cose. Deve iniziare a farle sue e iniziare a tramandarle ai propri figli, perché questo è il nostro compito. Le certezze crollano, l'ansia inizia a salire, il panico inizia a dilagare e qualche amico della controinformazione minacciava di lager specializzati solo per non vaccinati e carcere per chi non si piegava alle imposizioni. Addirittura il banchiere dei banchieri, Mr. Mario Draghi, lo stragista greco, chiamiamolo con il suo nome, sotto la sua egida la Banca Centrale Europea ha dato il via allo sterminio dei nostri fratelli greci. E il loro amico Conte, che gli ha passato la palla precedentemente a lui, facevano degli annunci scioccanti in televisione. No, vi ricordate il famoso "chi non si vaccina muore"? Ecco, vedete dove siamo arrivati. Tutti questi strani e stranissimi malori che capitano perfino a bambini di 8 o 12 anni. Ma come mai prima non succedevano, ragazzi? Tutto casualmente, vero? Sempre casualmente. Ancora intontito dal bel diretto che la realtà ci aveva tirato, quindi ancora a terra, ancora un po' dopo essermi svegliato da quella sensazione di blackout, e forse ancora un po' incredulo verso quei risvolti sconvolgenti che si presentavano davanti agli occhi, assistevo all'ennesimo teatrino dello scontro politico. Se vogliamo dirla così, tutto iniziava ad avere un senso e tutto prendeva una forma. E questo faceva paura. Cavolo, se faceva paura. E poi, grazie agli amici di Firenze, in realtà anche i ragazzi di Firenze che si erano schierati apertamente contro questa farsa, contro l'avanzare del digitale, della digitalizzazione, abbiamo rintracciato questi fantastici obiettivi dell'Agenda 2030, che adesso vi vado a leggere. Il primo obiettivo è di sconfiggere la povertà, però non ci dicono in che modo sconfiggeranno la povertà. Molto probabilmente ci affameranno i paesi più poveri, o comunque proveranno, non so, a iniettarci dei farmaci sperimentali, non so, la Resident Evil magari, qualcosa tipo Virus T, diventeremo morti viventi. Sconfiggere la fame, chiaramente qua stiamo puntando sul cibo a base di insetti, ma non so voi italiani se condividete con me l'idea che la nostra tradizione culinaria sia quella più elaborata e più complessa del pianeta, tant'è che ce la invidia tutto il mondo. E questi beati coglioni vorrebbero farci mangiare le camole e i vermi, poveri idioti di merda. Ah, ovviamente ragazzi, vorrei ricordarvi che l'Europa ha proposto di etichettare tutti i prodotti italiani, soprattutto vino, parmigiano e tutte quelle cose che ci rendono speciali, come carcerogeni. Ma vi rendete conto di fino a che punto si stanno spingendo? Salute e benessere l'abbiamo visto in questi 3 anni, no? Decide l'OMS, che è un organo talmente lontano e talmente di burocrati che non sa che cazzo fare, ha dato dei protocolli assurdi e inutili che hanno ucciso delle persone, tant'è che adesso hanno proposto una bellissima serie di vaccinazioni obbligatorie per tutti i dipendenti pubblici, un piano per le vaccinazioni ormai mRNA, non sia mai che quelle che funzionano le possiamo utilizzare, semmai hanno funzionato. Quindi nuovi soldi, nuovi introiti obbligatori pagati con mezzi oscuri, come si sta scoprendo dalle intercettazioni adesso, verso le farmaceutiche. Evviva, evviva, ragazzi, investite sulle azioni delle farmaceutiche. Parità di genere. No, perdon. Istruzione di qualità. L'istruzione di qualità è stata quella delle DAD, ragazzi. E vi dico solo questo. L'istruzione di qualità è stata quella che ha escluso gli studenti universitari perché avevano fatto una scelta di libertà sanitaria. Non si poteva andare a scuola. È stata la scelta di lasciare a casa i bambini vaccinati, malati e isolarli perché avevano preso il Covid. È stata la scelta di escludere i ragazzini che non volevano farsi questa iniezione dall'utilizzo dei mezzi pubblici. Questa è l'istruzione di qualità. Parità di genere. Ah beh, qua stiamo assistendo al miglior teatrino della storia, con coppie gay che si lamentano che non possono avere figli qua in Italia. Sai com'è? Banana più banana e patata più patata di solito non funzionano. Funziona banana più patata di solito, per essere poco diretto, ecco. E l'altra cosa invece abbiamo dall'altra parte coppie di due sessi diversi che si lamentano, anzi che si vantano, che non avere figli facilita la loro vita sessuale e la loro felicità. Ecco perché i bambini puzzano e sporcano. Vi rendete conto che ridicoli che sono? Cioè, preferiscono i cani, ecco. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Allora, qua c'è da un pochino da ridere, ragazzi, perché in Italia soprattutto, è uscito qualche settimana fa, e vi metterò il link, la piantina, cioè la piantina regionale, con le perdite di acquedotto. Ecco, si arriva fino al 70% in alcune regioni italiane e qui ci vogliono parlare dell'acqua pulita. Poi acqua pulita come? Come quella di Bill Gates che vuole recuperarla da quella delle fogne? Energia pulita e accessibile a tutti, ragazzi. Ma che bello obiettivo! Ovviamente ottenibile cancellando le fonti di carburante. L'avete visto la mappa dei paesi che entro il 2035 smetteranno di immatricolare diesel? Ecco, vi ricordate quel puntino blu al centro del mondo? Ecco, noi solo l'Europa salverà il pianeta. Chiaramente, con le macchine elettriche, che non funzionano, inquinano di più, costano di più, in termini ambientali, perché estrarre il litio nelle miniere di litio, oltre che a livello umano e dell'uccisione di bambini e minori che lavorano sotto sfruttamento in queste miniere di litio, immaginatevi cosa vuol dire smaltire una batteria al litio. Ecco. Elettricità per tutti, no? Lavoro dignitoso e crescita economica. Crescita economica. Già sono due paradigmi completamente opposti. Crescita economica non vuol dire ricchezza, assolutamente. Avete visto come funziona il sistema del debito? Avete visto che ogni anno ormai l'Italia dovrà presentare con il PRN, il piano di resistenza e resilienza nazionale, gli obiettivi della spendita dei propri soldi. Soldi che secondo l'Europa ci dà lei. Dettaglio particolarmente importante, siamo contributori attivi da più di 20 anni, cioè siamo solo noi che versiamo i soldi all'Europa, gli altri se li prendono e basta. E lavoro dignitoso ormai in Italia è una presa per il culo, perché ormai si intende che fare il fattorino, il delivery man oppure il modello OnlyFans o la modella OnlyFans sia la prospettiva di tutti. Ce lo dicono i giornali, ce lo dice Repubblica, Repubblica è lo specchio del piano transumanista. Quindi cioè, se questi sono gli obiettivi che vogliono raggiungere, capiamo dove vogliono arrivare. 9. Imprese, innovazioni e infrastrutture. Ovviamente non quelle italiane, visto che ormai le stiamo svendendo da 20 anni grazie alla politica statale che ci impedisce di lavorare con una pressione fiscale del genere. Assumere una persona costa migliaia di euro, a differenza degli altri paesi, non ci sono sgravi fiscali. Non c'è incentivo ad assumere a tempo indeterminato. Questo è il loro obiettivo. Rendere tutti schiavi e precari. Ridurre le disuguaglianze. Quali? Quelle che decide la mattina Bill Gates e che possono tornare utili sul tornaconto personale. O non lo so, signor Davos, o magari disuguaglianze nel senso del primo nemico che si fissa negli USA, no? Tanto è sempre colpa degli altri, loro non sbagliano mai. Città e comunità sostenibili. L'avete vista la Londra dei 15 minuti? Senza la vostra identità digitale, che viene riconosciuta da delle camere, ragazzi, delle telecamere nel supermercato non si aprono gli scaffali. Se non fai il bravo cittadino, non ti compri le uova. Consumo e produzione responsabile. Traduzione: decide il governo mondiale che cazzo mangi, che cazzo compri, che cazzo vuoi. Non vi sembra l'ipnopedia del mondo nuovo? Lotta contro il cambiamento climatico. Chiaramente manifestando e imbrattando le opere d'arte storiche e più importanti del mondo. Cancelliamo la bellezza distruggendo la bellezza. Eh? Cancelliamo il cambiamento climatico distruggendo la bellezza, no? Ce l'ha detto la nostra cretina, no? Che adesso la portano ogni 2x3 in giro avanti e indietro gli sbirri, paghiamo noi. Guardate in Francia se gli sbirri portano in giro gli arrestati. Li lasciano in terra incoscienti e poi scappano quei figli di puttana in divisa. La vita sott'acqua. Qua ancora non ho capito sinceramente che cosa vorrebbe dire. Cioè, se vogliono proteggere la fauna ittica, perché l'hanno iniziato a vaccinare questi imbecilli idioti ritardati, oppure se vogliono veramente trasferirsi sottoterra, no? Oh, e quindi andare a abitare nella nuova Atlantide. La vita sulla terra. Qua chiaramente si parla di accoppiamento con gli animali. Pace, giustizia e istituzioni solide. Ragazzi, abbiamo visto come funzionano le istituzioni in Italia, no? Adesso stiamo vedendo le intercettazioni col ministero. Guardate come funziona bene la giustizia in Italia. Guardate come funziona il Parlamento, che ormai non produce più un atto normativo, ma si limita a ratificare atti normativi di istituti superiori o internazionali, tipo l'Europa, tipo l'OMS. Ormai non serve neanche più il cervello. La Meloni, da patriottista, no? Non ci piegheremo, adesso è diventata il cagnolino internazionale di tutti gli stati. Adesso perfino succhia lo scroto Zelensky. Partnership per gli obiettivi. Cioè, ragazzi, serve per forza almeno un governo mondiale per organizzare tutto questo, no? Insomma, 17 punti che portano al governo mondiale, al controllo indiscriminato della popolazione, e vorrebbero spacciarci questi bellissimi obiettivi, che in facciata sembrano fantastici, come se loro fossero la Croce Rossa internazionale e quindi volessero salvare il pianeta. Sappiamo bene invece che la partnership per questi gruppi è l'insieme delle aziende private. Le aziende private non si muovono se non per profitto. E abbiamo visto quanti miliardi il nostro CEO Fifster, quanti miliardi si è fatto. Se non mi ricordo male, 650 miliardi da inizio anno. Lo stesso che hanno cuccato quel giornalista che gli ha detto che non sapevano in realtà se le sperimentazioni erano fatte. Ma non vi fa incazzare un pochino questa cosa? A me sì, tantissimo. La domanda sorge spontanea. Perché, nonostante i cambi di bandiera, di governo, non ci sia mai stato, dagli anni 80 in avanti, uno stop al perseguimento di questi obiettivi? Ma soprattutto, perché l'agenda globale deve prevalere sugli interessi del singolo Stato? Non credo che sia molto utile dare la colpa al capitalismo o al marxismo becero, che in realtà è un capitalismo vestito di rosso. Assegnare un ruolo socio-economico agli esseri umani e sviluppare il sistema sociale in base a quello è alla base del globalismo, anzi del materialismo, che dalla seconda guerra mondiale ormai ha portato all'inizio il benessere e adesso sta ridistribuendo invece la sofferenza. Stiamo assistendo ormai a uno stato di controllo che punta sempre più verso il controllo, prima attraverso la polizia, adesso attraverso l'intelligenza artificiale, poi insieme agli strumenti della digitalizzazione. Stiamo assistendo all'umiliazione del nostro popolo, che deve piegarsi alle ideologie e alle restrizioni. Perché chi non si piega non apprezza il valore della vita e non vuole in realtà il bene della società, e quindi va isolato e va, è puramente pazzo. Non desidera vivere in un sistema dove, dove l'obiettivo principale è accumulare beni. La propaganda regna incontrastata in TV, smartphone, PC, tablet, social, e chi più ne ha ne metta, sempre sintonizzati a vedere Locatelli sul bollettino di morte. Aspettavamo dall'alto la decisione di quale negozio sarebbe stato chiuso a seconda del suo codice ateco e quali, chi poteva andare in giro il giorno dopo, no? Ve lo ricordate? O quante volte potevamo andare a fare la spesa? Ma cavolo, ma vi rendete conto di che cosa abbiamo accettato? Per di più, il consiglio di Sapienti, il CTS, che ci hanno spacciato come gli dei scesi in terra, era un consiglio pieno di persone in conflitto di interesse, che buona parte non sapevano neanche da che parte era girata, perché c'era anche praticamente la feccia dell'umanità, anche a livello medico. Che cazzo ci faceva un ginecologo nel CTS? Spiegatemelo, perché io vorrei capirlo. Era diventato il nostro, il ministero della verità e della guerra, cioè ti diceva chi combattere e chi aveva ragione. Insomma, un braccio del potere del governo mondiale, finanziato, come è stato provato negli ultimi giorni, addirittura dalle farmaceutiche dei privati. Perché voler controllare perfino cosa mettere nel piatto? Molti mi hanno detto in questi anni che non trovano un motivo per spingere il controllo, perché queste persone vogliono spingere il controllo a livello così capillare. Io vi dico che da una parte c'è un mero senso di potere. Il potere punta sempre ad aumentare la sua influenza. C'è poi da considerare dove si legittima questa forza di coercizione. Si legittima dalla nostra esigenza e dalla nostra brama più elementare di beni. Noi vogliamo e desideriamo sempre qualcosa di nuovo, ma anche senza motivo e senza accorgerne. Possedere o avere è l'unico mezzo per affermare la nostra esistenza e la nostra immortalità. Tant'è che la struttura del testamento serve a tramandare i posteri la nostra eredità, la nostra esistenza, no? Noi costruiamo la nostra esistenza sui beni. Alla fine delle finite, chi cazzo sa che cosa c'è dietro dall'altra parte? Anzi, questo sistema punta a dire che sicuramente non c'è niente, quindi perseguire la vita su questo pianeta. In questo momento, subito, e puntando solo ai beni. Negli ultimi 70 anni si è pensato questo, un po' meno forse beceramente nei primi anni 50, perché c'è stata comunque anche la rivoluzione giovanile fermata da un progetto Blue Moon o comunque dall'introduzione delle droghe e grande direzione del dissenso, come è stato anche negli ultimi 3 anni, direzionamento del dissenso da parte delle forze del potere. Pensate che bello poi, perché avere degli stati, invece di avere degli stati singoli da corrompere, avere soltanto un'istituzione come è stato per l'Unione Europea e la compravendita di questi sieri magici da corrompere. Cioè invece di 1 milione di persone da corrompere ne avete, non so, 1 migliaio. Quindi forse il potere economico riesce ad arrivare anche lì. Ma poi che bello non avere avversari, no? E poter decidere vita e morte dei propri avversari. A livello imprenditoriale, sto dicendo. Quindi, almeno una parte del perché, secondo me, è spiegata. È sempre quella. Vogliono più soldi, vogliono più potere e vogliono dettare chi deve avere più soldi e chi avere potere. Abbiamo iniziato a rinunciare alle nostre prerogative per la comodità. E questo riguarda noi. È molto semplice cosa scegliere tra un servizio che lo Stato ti offre gratuitamente o comunque che approva, oppure non avere reddito. Eh sì, ragazzi, bisogna ammetterlo. La violenza che abbiamo subito con l'obbligo surriettizio, sia per gli over 50, sia per tutti gli altri lavoratori, per un periodo di queste restrizioni, con il controllo al lavoro di questo fantastico strumento di sicurezza, come diceva il nostro Premier Draghi, macellaio, è stata uno schifo. Tutto parte da questi pezzi di carta che guidano la nostra vita, chiaramente, e poi si proroga verso il nostro mondo, la nostra verità. Noi costruiamo la nostra verità, la nostra realtà attraverso ciò che possediamo. Solo pochi agiati si possono permettere un'etica, una scelta un po' meglio. Tutto quello che riguarda la metafisica se la possono permettere solo chi sta bene, e chiaramente non le masse. Il mezzo per ottenere la nostra libertà è diventato il fine. Avere denaro o averne in quantità mostruose condiziona la mia vita e quella degli altri. Il potere economico decide quindi che cosa ne sarà di tutte le persone che non si inchinano al suo fascino. Potere quindi che espande sempre più capillarmente la sua diffusione fino ad arrivare alla sfera privata e decidere che ruolo assegnare al singolo per renderlo parte del suo organismo, del suo metabolismo, a qualsiasi costo. Vi ricordate, ragazzi, quando ci hanno detto che non potevamo invitare i nostri parenti a Natale? Vi ricordate quando ci hanno detto di denunciare i nostri vicini se avessero avuto più di due persone a casa? Vi ricordate che ci hanno detto di non fidarci perfino dei nostri parenti? Vi ricordate che vi hanno impedito di vedere i vostri parenti nell'RSA in ospedale? Vi ricordate che hanno ucciso i nostri cari senza poterli vedere? Perfino al funerale non ci era concesso vedere le loro salme. E che ne so io che ho seppellito qualcun altro? E perché non posso piangere la persona che ho amato nella mia vita? Ma vi rendete conto che esseri immondi abbiamo davanti? È un bombardamento continuo che vuole lasciare spazio solo all'illusione di poter ancora decidere. E lo stesso fanno con i movimenti del dissenso. Creano un'alternativa che alla fine rientra nei loro schemi. Ma ne parleremo nella prossima puntata. Vi direi che non serve creare il metaverso, ci siamo immersi nel metaverso. E come faccio a dirlo? Ogni respiro, ogni istante del nostro essere è programmato, studiato, immagazzinato e fotografato. E il bello è che siamo stati noi a concederlo, accettando i termini e le condizioni con il touch del nostro schermo. È stato facile, no? Ma a me interessava quello, a me importava di quello. Io. Conoscono perfettamente quanti soldi abbiamo in banca, di che colore abbiamo comprato le mutande online e dove eravamo a fare l'aperitivo ieri sera. Vi piace pagare col banco, mate coglioni. Quindi è solo la mera questione di tempo. Quando arriveranno a dettarsi che mutande comprare, dove andare a fare l'aperitivo e dove andare domani e dopodomani. Scelgono già loro per noi, perfino le elezioni. Eppure da più di 20 anni assistiamo a governi tecnici di ex banchieri, ad esempio come Mario Monti, in primis Napolitano, ex Banca Italia, insieme a Prodi e al nostro Draghi, Mr. BCE. Gli altri personaggi intermedi collaborano a portare avanti sotto banco apertamente 17 punti tanto cari alle elite mondiali per cancellare il singolo, o meglio la molteplicità del singolo. Perché cancellare ogni forma di contatto? Perché eliminare ogni pensiero e espressione di dissenso se il potere è così convincente? Fortunatamente ancora qualcuno che non imposta la vita sulla vera c'è, e questa gente fa paura perché è molto convincente. È semplice dire, cazzo no, esiste solo la materialità, è molto più convincente invece delle altre forze. Eppure qualcuno riesce ancora a sopravvivere, anzi a vivere pienamente, a essere pienamente. Le idee sono più pericolose dei fucili e delle nucleari. Pensare a scoperchiare questo calderone di potere economico bancario, pedofilia e orientamenti sessuali deviati? Queste abitudini green che inquinano ancora di più delle vecchie abitudini e delle soluzioni fossili, potrebbe cancellare il loro sistema di legittimazione. Nonostante il potere economico, non ci sono abbastanza soldi per tutti, senza contare, citando gli amici marxisti, in questo caso sarebbe veramente ridistribuzione del reddito. Dobbiamo essere sempre più poveri, più attaccati alla sopravvivenza e al limite della fame. Solo così non ci sarà alcun problema. E aggiungo che dobbiamo essere sempre in tensione. Ogni 2x3 devono dirci che il mondo sta per finire se non ci adattiamo alla certa misura. E lo stesso fanno i nostri gruppi di controinformazione. Tant'è che ogni 2x3 spacciano quelle fantastiche notizie che domani il mondo finirà. Ah, dimenticavo che l'accelerazione e il continuo movimento, o meglio la velocità, caratterizzano questa fase storica proprio perché ci vogliono portare alla cancellazione della dimensione temporale e spaziale, che sono quei due fattori che definiscono l'esistenza umana. Insomma, cosa può fermare questa cosa? Questo avanzare continuo? Bisogna appunto fermarsi, rimanere immobili e guardare, osservare, avere capacità critica. La riflessione e lo sviluppo della geometria del pensiero, come hanno detto i ragazzi di Weltanschauung Italia nel loro fantastico Verba Contra, geometria del pensiero che possiamo chiamare anche filosofia, è esplosivo, tritolo per la degenerazione a cui assistiamo. Se vogliamo ragionare con la logica e ripensare agli ultimi 2 anni passati, solo chi ha profondamente creduto alla narrazione propagandistica non ha il minimo dubbio. E i dubbiosi iniziano a essere sempre di più. Ma riusciranno a resistere alle torture? Parte terza, capitolo 2, 1984. Si trovava in una cella che poteva essere buia e illuminata, perché non vedeva altro che 2 occhi. Molto vicino a lui, uno strumento imprecisato metteva un lento e regolare ticchettio. Gli occhi si facevano sempre più grandi e luminosi, finché, a un tratto, Winston si alzava in un volo dal posto dove era seduto, per immergersi in quegli occhi, dentro cui annegava. Era legato con cinghie a una sedia con una serie di quadranti, sotto una luce accecante. Un uomo in camice bianco leggeva i quadranti. Si udiva un calpestio pesante di stivali, percorreva il corridoio. Poi la porta si apriva con un forte rumore e entrava un ufficiale dal volto pallido seguito da 2 guardie. «Stanza 101», diceva l'ufficiale. L'uomo in camice bianco non si voltava né degnava Winston di uno sguardo, continuando a tenere gli occhi fissi sui suoi quadranti. Dopodiché lui scivolava lungo un corridoio enorme, largo 1 chilometro, inondato di un'accecante luce dorata, ridendo istericamente, urlando le sue confessioni con tutto il fiato. Stava confessando tutto, perfino quello che era riuscito a non rivelare sotto tortura. Stava raccontando la storia di tutta la sua vita a qualcuno che già la conosceva. Con lui c'erano le guardie, gli altri inquisitori, gli uomini in camice bianco, Brian, Julia, il signor Carrington. Tutti scivolavano lungo il corridoio e ridevano. Qualcosa di spaventoso che il futuro aveva tenuto celato dentro di sé era saltato e non era più accaduto. Ora tutto andava bene. Il dolore era scomparso e fino all'ultimo dettaglio della sua vita era lì, messo a nudo, compreso e perdonato. Ora si stava alzando dal suo tavolaccio, quasi certo di aver udito la voce di Brian. Durante tutti gli interrogatori che aveva subito, pur non avendo mai visto, aveva avuto l'impressione che O'Brien gli fosse stato accanto senza farsi vedere. Era O'Brien che dirigeva tutto. Era lui che incitava le guardie e poi le fermava prima che lo facessero fuori. Era lui a stabilire quando Winston doveva urlare dal dolore, quando doveva riprendere fiato, quando doveva mangiare e dormire, quando gli si dovevano iniettare farmaci nelle vene. Era lui che faceva le domande e suggeriva le risposte. Era lui che lo tormentava, proteggeva, interrogava. Era lui l'amico. Una volta, Winston non riusciva a ricordare se ciò fosse accaduto durante il sonno indotto o dai medicinali, oppure durante un sonno naturale o addirittura in un momento di lucidità. Una voce gli aveva sussurrato all'orecchio: «Non aver paura, Winston, ti proteggo io. Ti ho sorvegliato per 7 anni, ora siamo alla svolta decisiva. Io ti salverò, ti renderò perfetto». Non era sicuro che fosse la voce di O'Brien, ma certo che si trattava della stessa voce che gli aveva detto: «Ci incontreremo laddove non c'è tenebra», in un altro sogno, fatto 7 anni prima. «Una volta ti ho detto che se mai ci fossimo rivisti sarebbe stato in questo luogo». «Sì», rispose Winston, senza che nulla lo potesse preparare. Se si esclude un leggero movimento della mano di O'Brien, un'ondata di dolore gli attraversò il corpo. Era una sensazione tremenda, perché non poteva vedere che cosa stava succedendo, pur avendo l'impressione che il suo corpo stesse subendo qualche danno irreparabile. Non sapeva se si trattava di un'esperienza reale o solo di effetti indotti dall'elettricità. In ogni caso, il suo corpo era come deformato dalle contorsioni, mentre le giunture venivano lentamente strappate. Il dolore gli aveva coperto la fronte di sudore, ma ciò che più di tutto lo terrorizzava era che la spina dorsale fosse sul punto di spezzarsi. Strinse i denti e inspirò profondamente col naso, cercando di restare in silenzio il più lungo possibile. «Tu hai paura», disse O'Brien, guardandolo dritto in faccia, «che dal momento all'altro si possa spezzare, e temi più di ogni altra cosa che possa essere la spina dorsale. Puoi vedere chiaramente le vertebre che si staccano una dall'altra, facendo uscire il midollo. Stai pensando questo, Winston, non è vero?» Winston non rispose. O'Brien alzò di nuovo la leva sul quadrante e l'ondata di dolore se ne andò con la stessa rapidità in cui era venuta. «Era 40», disse. «Come puoi vedere, i numeri sul quadrante vanno fino a 100. Ti prego di ricordare, nel corso della nostra conversazione, che ho il potere di infliggerti dolore in ogni momento e dell'intensità che preferisco. Se mentirai o cercherai di essere evasivo, e perfino se non ti mostrerai l'altezza della tua intelligenza, griderai di dolore all'istante, comprendi?» «Sì», rispose Winston. I modi di O'Brien si ammorbidirono. Sistemò gli occhiali sul naso con aria pensosa, poi fece qualche passo avanti e indietro. Quando parlò di nuovo, il tono era gentile e paziente. Aveva l'aria di un dottore, di un insegnante, addirittura di un prete, desideroso di spiegare e persuadere piuttosto che punire. «Mi sto preoccupando di te, Winston», disse, «perché tu lo meriti. Sai benissimo qual è il tuo problema. Lo conosci da anni, anche se hai cercato di opporti a questa verità. Hai la mente confusa. La memoria ti inganna. Non riesci a ricordare eventi reali, mentre sei convinto di ricordare fatti che non sono mai accaduti. Per fortuna si tratta di un male che si può curare. Tu non ti sei mai curato perché non hai mai voluto farlo. Era necessario un piccolo sforzo di volontà, ma non eri ancora pronto a farlo. Anche ora, ne sono sicuro, rimani attaccato alla tua malattia, ritenendo che si tratti di una virtù. Ora ne avremo un esempio. Con quale potenza l'Oceania è attualmente in guerra?» «Quando sono stato arrestato, l'Oceania era in guerra con l'Estasia». «Con l'Estasia, esatto. E l'Oceania è sempre stata in guerra con l'Estasia, giusto?» Winston trattenne il respiro, aprì la bocca per parlare, ma poi si bloccò. Non riusciva a togliere gli occhi dal quadrante. «La verità, per cortesia, Winston, la tua verità, dimmi cosa credi di ricordare». «Ricordo che appena una settimana prima che fossimo arrestati, non eravamo affatto in guerra con l'Estasia. Eravamo alleati, la guerra era contro l'Eurasia. Durava da 4 anni prima». O'Brien lo interruppe con un gesto della mano. «1984, parte terza, capitolo 2. O'Brien lo stava ancora scrutando in volto con aria pensierosa. Ricordava un maestro che si dà da fare con un bambino capriccioso ma sveglio. «C'è uno slogan del partito che riguarda il controllo del passato. Ripetilo, per favore». «Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato», ripete Winston, obbediente. Chi controlla il presente controlla il passato, disse Brian, annuendo piano col capo. Tu pensi, Winston, che il passato abbia un'esistenza concreta? Winston si sentì nuovamente impotente. Gli occhi tornarono per un attimo al quadrante. Non solo non aveva idea se la risposta che gli avrebbe evitato il dolore fosse sì o no, ma non sapeva neanche quale fosse veramente per lui la risposta corretta. O'Brien sorrise debolmente. Tu non sei un metafisico, caro Winston, gli disse. Fino a questo momento non hai mai considerato cosa si intenda per esistenza. Cercherò di essere più chiaro. Il passato esiste concretamente nello spazio? Esiste da qualche parte, in qualche luogo? Un mondo di oggetti solidi dove il passato sta ancora accadendo? No. E allora dov'è il passato? Dove esiste il passato? Sempre che esista davvero. Beh, nei documenti è scritto. Nei documenti e poi? Nella mente, nella memoria degli uomini. Nella memoria. Noi, il partito, controlliamo tutti i documenti e controlliamo ogni memoria. Di conseguenza controlliamo il passato, corretto? Ma come potete impedire che le persone ricordino? Gridò Winston, dimenticandosi per un attimo del quadrante. È un atto involontario, fuori dal nostro controllo. Come potete controllare la memoria? La mia non l'avete controllata. I modi di O'Brien si fecero di nuovo duri. Appoggiò la mano sul quadrante. Esattamente il contrario, disse. Sei tu che non hai ancora controllata, per questo ora ti trovi qui. Tu sei qui perché non sei stato umile, non hai avuto autodisciplina, non hai compiuto quell'atto di sottomissione che è il prezzo della sanità mentale. Hai preferito essere un pazzo, essere una minoranza. Solo una mente disciplinata può davvero discernere la realtà, Winston. Tu pensi che la realtà sia qualcosa di oggettivo, di esterno, che esiste per proprio conto. Credi che la natura stessa della realtà sia evidente di per sé stessa. Quando ti illudi vedere qualcosa, presumi che tutti vedano la stessa cosa. Ma io ti dico, Winston, che la realtà non è qualcosa di esterno. La realtà esiste nella mente umana e da nessun'altra parte. Non nella mente di un singolo individuo che può essere in errore e comunque passeggiava, bensì di quella del partito, che è collettività e imperitura.